Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di nuovo di banche, perché ci sono alcune novità e soprattutto si sta ragionando su che cosa fare di alcune situazioni bancarie italiane, ma mi riferisco alle novità relative alla definizione che ha dato oggi il presidente dell'ABI, delle banche italiane, degli stress test. C'è molta maretta sugli stress test che saranno diffusi il prossimo venerdì 22 luglio alle 22 ore italiana. Questo lo si legge proprio sul sito dell'EBA, che è l'autorità bancaria europea. Saranno comunicati anche i dati di bilancio e le esposizioni alla fine del 2015. Patuelli, numero uno dell'ABI, oggi dice: gli stress test sono astrusi nel metodo e nel merito. E la fuga di notizie nel passato ha creato danni e psicosi, fuga di notizie sull'effetto degli stress test. E poi Patuelli dice: le sofferenze sono il flusso, delle sofferenze è in calo. Perché c'è maretta? Perché Credit Suisse, la banca d'affari svizzera, ha condotto i suoi stress test personali su 4 banche italiane. E secondo gli analisti, in caso di scenario avverso, perché gli stress test prevedono vari scenari, di cui quello che è più delicato è lo scenario avverso. Se non ricordo male, sono 3 anni di recessione e quindi da questo punto di vista è uno scenario drammatico. Molti fanno notare che in quel caso il problema non sarebbero tanto le banche, ma la tenuta dell'economia del paese. Cioè, la critica è che sono stress test così negativi e così che mettono così sotto stress la banca, che in realtà, se ci trovassimo di fronte a una situazione del genere, il problema non sarebbe la tenuta solo del sistema bancario, ma la tenuta del paese. Comunque, Credit Suisse ha fatto la sua sperimentazione su 4 banche italiane e, in caso di scenario avverso, secondo Credit Suisse, il Monte dei Paschi presenterà un deficit di capitale compreso tra gli 0,6 e i 3 miliardi e mezzo di euro. Scrive Credit Suisse: nel nostro scenario peggiore, Monte dei Paschi avrà probabilmente bisogno di un aiuto statale o dovrà affrontare la risoluzione, cioè il bail-in, e quindi uno shortfall, quindi una mancanza di capitale superiore al miliardo, difficilmente potrebbe essere gestito senza o il bail-in o l'aiuto di Stato. Per quello che riguarda le altre banche, Credit Suisse ritiene che anche Intesa e UBI che sia Intesa che UBI disporranno di uno scenario da questo punto di vista positivo, perché hanno capitale a sufficienza anche nei confronti di uno scenario terribile, mentre Unicredit potrebbe evidenziare un ammanco di capitale tra i 4 e i 9 miliardi. Che però, e questa, se volete, la notizia positiva per Unicredit, la banca starebbe già inglobando nel suo prezzo di borsa. Poi ci dichiarazioni varie, UbiBank che dice: non siamo interessati alla ex banca Anton Veneta. Ne parleremo. Parleremo anche da questo punto di vista di due elementi. Uno è la Turchia, perché c'è un'esposizione molto forte anche delle imprese italiane. La situazione in Turchia, come vi racconto nel nostro GR24, sta peggiorando per il giro di vite obiettivamente assurdo messo in atto da Erdogan, però la Turchia è un partner importante. Le nostre imprese sono 1300 le imprese che hanno una presenza in Turchia, le imprese italiane che hanno una presenza in Turchia. Ma parleremo in apertura anche di un tema che può sembrare minore, ma non lo è, perché ci sono state proteste anche oggi, ossia il tema del prezzo delle commodities agricole in questo caso, e il prezzo del grano. È stato convocato infatti dal ministro alle politiche agricole Maurizio Martina al tavolo nazionale della filiera cereicola, perché con i rappresentanti delle regioni della filiera, perché c'è stata una manifestazione di migliaia di agricoltori davanti al Ministero delle Politiche Agricole, e su questo quello che desta preoccupazione è l'andamento dei prezzi del grano. La Coldiretti parla di un prezzo che ha i valori, è tornato ai valori di 30 anni fa, e rischia di rovinare 300.000 aziende solo in Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente, e poi 349-238-6666 è anche il numero per WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Andiamo come sempre alla borsa. In apertura più 0,50% Milano in questo momento, invece per quello che riguarda Parigi più 1%, Francoforte più 1,5%, Londra più 0,40%, Dow Jones più 0,20%. Perché Milano? Beh, insomma, Milano, dopo quello che abbiamo letto sulle banche, risente, soprattutto il Monte dei Paschi meno 2,60%, Banco Popolare meno 1%, invece va male anche Tenaris, meno 2,50, Telecom è debole, meno 1,20, Eni meno 0,90. Chi va bene oggi? Il lusso soprattutto, Moncler più 4%, Luxottica più 2,30, Ferragamo pure, Hugues Saint-Apporté più 2,10%. Recupera anche dopo lo scivolone di ieri sulle polemiche, sull'indagine della SEC negli Stati Uniti, Fiat Chrysler più 3,80%, Saipem più 2,20 ed STMicroelectronics più 2,10%. Allora, per quello che riguarda invece il rapporto di cambio euro su dollaro a 1,10, andiamo avanti con le notizie in breve per quello che riguarda questa giornata economico-finanziaria. Andiamo come sempre sulle notizie internazionali. Morgan Stanley, periodo di bilancio delle banche d'affari. Morgan Stanley ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in calo del 5% a 1.580 milioni di euro. Mentre dopo lo scandalo, per quello che riguarda il colosso Volkswagen, dopo lo scandalo ha chiuso con i primi 6 mesi dell'anno con profitti oltre le attese. L'utile operativo è salito a 7 miliardi e mezzo di euro contro i 7 miliardi del 2015. Andiamo avanti per quello che riguarda l'Unione Europea. C'è stato un significativo calo della fiducia dei consumatori nell'area dell'Unione Europea a luglio, meno 1,8 punti. Cala più complessivamente nell'Unione Europea la fiducia dei consumatori che nell'area euro, meno 0,7%. Sull'area euro oggi faccio notare che nel Question Time alla Camera dei Comuni il neo premier britannico Theresa May ha detto che la Gran Bretagna sta uscendo dall'Unione Europea ma non dall'Europa. Sappiamo che ha rinunciato al semestre chiaramente di presidenza. La nostra cooperazione continuerà, adesso inizierà un periodo molto lungo di trattativa. Abbiamo capito che gli inglesi fino al 2017 non ne vogliono parlare, non ne vogliono pensare, però insomma è anche un grosso imbarazzo, anche perché nel frattempo continuano ad arrivare notizie negative sul fronte della Brexit, perché da un lato, secondo il quotidiano britannico il Times, sarà molto caro il costo delle consulenze che la Gran Bretagna dovrà avere per capire come uscire, diciamo, dall'Unione Europea, addirittura 5 miliardi di sterline, quasi 6 miliardi di euro nell'arco di 10 anni. Soldi dei contribuenti, forse avrebbero dovuto saperlo prima di votare, ma comunque, che verranno spesi per pagare gli avvocati dei migliori studi legali di Londra, che costano per inciso qualche migliaio di sterline al giorno, e poi dovranno essere assunti 5.000 nuovi dipendenti pubblici per lavorare al complesso di leggi e norme che legano la Gran Bretagna all'Unione Europea. Nel frattempo, per quello che riguarda l'effetto Brexit, oggi l'agenzia di rating Moody's ha rivisto da stabile a negativo tutte le prospettive sul sistema bancario britannico, proprio a causa dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. L'abbassamento dell'outlook riflette le aspettative che la cresciuta incertezza sui futuri accordi commerciali condurrà a fondamentali di credito più deboli per le banche britanniche, e poi questa incertezza porterà a un calo della fiducia e a una riduzione degli investimenti e della spesa per consumi. Allora, qualcuno vuole sapere cos'è il bail-in, l'abbiamo spiegato molte volte, comunque va bene, dal 1 di gennaio, nel caso di fallimento di una banca, le conseguenze, quindi se la banca deve non regge, le conseguenze le pagheranno gli azionisti, gli obbligazionisti di qualunque livello, e eventualmente, fosse necessario per reperire il capitale, anche i correntisti sopra i 100.000 euro. Il principio del bail-in, se vogliamo, può essere anche un principio corretto, cioè non scaricare quelli che sono i costi della cattiva gestione bancaria sullo Stato, sulla collettività, ma su chi è azionista, obbligazionista e poi eventualmente anche correntista. Il problema qual è? È che nel frattempo la Germania, che ha voluto fortemente il bail-in, sta frenando molto sul tema dell'unione bancaria europea, e cioè si dice va bene, però a sto punto cerchiamo di avere anche una regolazione non tanto unica, quella c'è già, delle banche a livello europeo, ma anche avere una garanzia sulle banche di carattere europeo. Invece su questo si frena moltissimo. Detto ciò, ne parleremo fra circa 10 minuti, quando affronteremo il tema degli stress test, delle indiscrezioni che stanno uscendo sugli stress test. Ancora due notizie. Una riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, perché oggi c'è stato il 4 premio imprese per la sicurezza realizzato da Confindustria assieme all'INAIL. Il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos, ha sottolineato come il tema sicurezza è un aspetto, oltre che determinante, non derogabile. Rendere, diciamo, questo progetto un progetto complessivo per tutte le aziende italiane, con delle testimonianze in cui emerge con chiarezza che le aziende che sono avanti su questo progetto sono anche più competitive, una questione che riguarda il paese e anche la cultura industriale del paese. Lavorare sui due fronti, interno alle aziende per una questione di cultura e sul profilo economico di semplificazione delle norme per far sì che la sicurezza sia un valore di competitività e una grande, come dire, elemento di cultura del paese. Ma Boccia è intervenuto anche sul tema del confronto con i sindacati per arrivare a una riformulazione del contratto di lavoro. Sappiamo qual è il tema: Confindustria chiede che vi sia maggior forza nel contratto di secondo livello, quindi quello aziendale, al di là di quello nazionale per la categoria, e nel secondo livello che i contratti vengano definiti in base alla produttività, quindi premi di produttività se aumenta la produttività, e variabile da azienda a azienda secondo quella che è anche la condizione delle varie imprese. Ha detto Boccia, con CGIL e CISL siamo a buon punto sui tavoli tecnici avviati a fine giugno. Con CGIL e CISL UIL, diciamo, e qui siamo, diciamo, a buon punto, perché il metodo che ci siamo dati è aprire vari tavoli e partire, diciamo, da quei tavoli dove c'è condivisione e competenza, cioè non fare l'inverso. Partire da quei tavoli significa, dove c'è condivisione e competenza, chiudere accordi e poi lasciare per ultimo evidentemente i tavoli dove ci sono divergenze. Non fare l'inverso, perché se partiamo dai tavoli, come dire, dove non condividiamo aspetti, è difficile poi riportare la questione di metodo su altri. Abbiamo varie cose aperte, dalla rappresentanza alle politiche attive sul lavoro, e su questo lavoreremo. E su questo devo dire che il primo test, diciamo, è in questo momento è il contratto dei metalmeccanici. Ha detto Boccia sostanzialmente: lasciamo lavorare Federmeccanica e i sindacati di categoria. Tra l'altro, sui metalmeccanici oggi è intervenuta anche il segretario generale della CGIL Susanna Camusso, che ha detto: attenzione, insomma, da Confindustria urge una scelta politica, quella di rinnovare i contratti, fermo restando che ogni organizzazione riconosce autonomia alle sue strutture. Invece il segretario generale della FIMCIS Marco Bentivogli ha detto: il contratto non va in ferie, il 28 luglio riuniremo la segreteria unitaria nazionale per valutare nuove iniziative per fare ripartire la trattativa con Federmeccanica. Boccia invece ha confermato che vuole lasciare Federmeccanica lavorare con i sindacati, appunto, di categoria per il rinnovo del contratto? Ma distinguerei i due aspetti. C'è una trattativa in corso con una categoria che riguarda un contratto, vediamo adesso, diciamo, l'evoluzione. L'altra questione, ci siamo dati con invece le segreterie confederali, è quella di individuare dei tavoli su cui ci sono degli argomenti, confrontarci, e se su questi argomenti o parte di questi c'è condivisione e competenza, chiudere gli accordi prescindendo dall'evoluzione di alcuni contratti che riguardano delle categorie. Vorrei ricordare che, diciamo, alcuni contratti, e molti li abbiamo fatti, abbiamo in corso questo, l'auspicio è che si possa arrivare a un equilibrio, vediamo. L'altra notizia riguarda, le altre due notizie riguardano una Ricucci, alle volte ritornano, eh? Eravamo rimasti a Ricucci che diventò celebre con i furbetti del quartierino, la famosa definizione quando scoppiarono gli scandali bancari, e dicevo, oggi, come i nostri Gele 24 mi hanno già raccontato, sia Stefano Ricucci che anche Mirko Coppola sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le fatture false per circa 1 milione di euro sarebbero state utilizzate da Ricucci, ok, per ottenere liquidità finanziaria, ma non solo, perché c'è anche un magistrato del Consiglio di Stato, nonché componente della Commissione Tributaria Regionale, Nicola Russo, fra i 10 indagati per l'inchiesta, perché che si inserisce in un contesto investigativo più ampio relativo al fallimento di una delle società del gruppo Magiste, quelli riconducibili appunto a Ricucci. Praticamente oggi 170 finanzieri del nucleo di polizia tributaria, questa mattina all'alba praticamente, hanno eseguito 40 perquisizioni tra Lazio, Lombardia e Campania nei confronti degli indagati e di società ad essere riconducibili. Sono ipotizzati reati complessivamente di rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per la Procura di Roma è altamente probabile che il magistrato Nicola Russo sia stato indebitamente retribuito da Ricucci in cambio della rivelazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale in favore della società del gruppo Magiste. Questa voleva una sentenza a favore. E addirittura hanno chiesto una misura interdittiva per il magistrato, non accolta, e citano alla procura anche un incontro in un albergo tra Russo e una donna presentatagli dall'immobiliarista. Ecco perché le agenzie titolano soldi e donne al magistrato. Soldi e donna, per ora, per essere precisi. Chiudiamo le notizie in breve con una buona notizia. Il TAR della Lombardia ha sospeso in via cautelare gli aumenti delle bollette di luce e gas scattati lo scorso 1 luglio. I giudici hanno infatti accolto il ricorso dei Codacons, presentato a seguito delle speculazioni dei grossisti sul mercato del dispacciamento. La nostra Roberta Pelegatta ha raggiunto il presidente di Codacons, Carlo Rienzi. È assurdo che nel nostro paese l'autorità dell'energia, che dovrebbe tutelare i cittadini, aumenta le tariffe di luce e gas dicendo: scusate, le aumento perché i grossisti hanno imbrogliato, hanno fatto speculazione, ma devo aumentare. Ma dove siamo? In che paese ci troviamo? Il TAR naturalmente ci ha dato subito ragione, ha sospeso. Non si può fare un aumento delle tariffe e scaricare sugli utenti gli imbrogli e le speculazioni dei grossisti dell'energia. In che modo questi grossisti hanno speculato? È ben spiegato nel provvedimento dell'autorità, facendo mancare l'energia in alcune regioni, sempre in Sardegna, quindi facendo aumentare i prezzi artatamente. Noi adesso abbiamo fatto una denuncia per associazione per delinquere e truffa aggravata contro questi signori che nemmeno sappiamo chi sono, perché l'autorità poi ha posto l'elenco, non pubblica l'elenco, e quindi invitiamo tutti gli utenti a protestare, andare sul nostro sito e a scaricare gratuitamente la nomina di parte offesa per agire per i risarcimenti. Esortate ad una class action? Praticamente abbiamo una class action in sede penale e poi la faremo anche al TAR, ma al momento siamo contenti perché gli aumenti non sono scattati, non possono scattare, sono sospesi, e quindi arriverà la prossima bolletta con le tariffe della precedente. Questi aumenti sono stati sospesi in via cautelare per quanto riguarda il mese di luglio. Ora quando se ne riparla? Adesso se ne riparla a metà settembre, ci sarà un'udienza collegiale al TAR di Milano, andremo a discutere e lì ci sarà un'altra decisione, vedremo come va. Allora, adesso arriveremo poi alle banche e alla Turchia, ai rapporti economici, ci sono anche quelli, obiettivamente è inaccettabile, scandaloso quanto sta facendo Erdogan, che non fosse un gran democratico, l'avevamo capito, è stato eletto in maniera democratica, Però questo non fa di una persona un democratico. Adesso vedo un'ultima agenzia, il Ministero dell'Educazione in Turchia ha sospeso altri 6.500 dipendenti dopo i 15.000 insegnanti già allontanati ieri e i 21.000 cui è stata tolta la licenza di insegnare nelle scuole private. Qualcuno mi deve spiegare che cavolo c'entrano gli insegnanti con questo golpe pasticciato, usiamo questo termine, non voglio andare a altre supposizioni, ma pasticciato dei militari, così come cosa c'entravano i rettori e i giudici ieri. Questa si chiama regolazione dei conti utilizzando la scusa del golpe. E qualcuno mi scrive: ma non dovremmo avere anche noi delle sanzioni contro la Turchia dopo come abbiamo fatto con la Russia? Il tema c'è tutto, lì c'era un'invasione, o meglio l'accusa di avere, di supportare, diciamo, gli indipendentisti ucraini, c'era una guerra in corso. Però insomma è chiaro che l'Europa da qualche parte la sua voce la deve far sentire, pur con tutti i legami economici con la Turchia, ci mancherebbe, ma insomma. Chissà cosa diranno tutti quei turchi che sono scesi in piazza a difendere, diciamo, la democrazia, e adesso si ritrovano praticamente in assenza di democrazia ulteriore. Comunque andiamo sul tema del grano. Perché? Perché c'è stata una manifestazione anche oggi, migliaia di agricoltori davanti al Ministero delle Politiche Agricole. Cosa sta succedendo al prezzo del grano? Praticamente il prezzo è tornato ai valori di 30 anni fa. E praticamente in un paese dove secondo le stime ci sono 300.000 aziende agricole che coltivano il grano, ma anche un territorio di 2 milioni di ettari a rischio desertificazione. E poi c'è il tema di quanto questo prezzo del grano non arrivi al consumatore, nel senso che se pochi centesimi al chilo concessi agli agricoltori, dal grano alla pasta i prezzi aumentano di circa il 500%, dal grano al pane addirittura del 1400%. Il ministro Martina ha proposto ha annunciato di aver approvato in quest'ora un finanziamento di 10 milioni di euro per dare un avvio a un piano nazionale cerealicolo. Ma noi siamo in collegamento con il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, l'Italia è uno dei principali produttori europei di grano duro, quello destinato alla pasta. Noi non siamo autosufficienti, Guidi, perché se non ricordo male il 60% lo importiamo, almeno il 60% di grano lo importiamo. Produciamo 5 milioni di tonnellate di produzione, soprattutto in Puglia e Sicilia, che da sole fanno il 42% della produzione industriale nazionale. Il grano tenero è di circa 3 milioni di tonnellate invece. E importiamo appunto 4 milioni e 300 mila tonnellate di grano tenero e 2 milioni e 300 mila tonnellate di grano duro, quindi queste sono le proporzioni, il 50% di quello che ci serve di grano frumento tenero e un terzo di quello che ci serve di grano duro, più 14% le importazioni complessive di grano duro e tenero nei primi tre mesi del 2016, quadruplicate più 315% dall'Ucraina. Il terzo fornitore di grano per noi, per il pane, per il grano duro da pasta il primato spetta al Canada, che ha aumentato del 4% le sue spedizioni. Il Canada può esportare in Italia a dazio zero, e qui iniziano i problemi, mentre quando noi esportiamo la pasta che lavoriamo con il loro grano in Canada c'è un dazio che arriva fino all'11%. Il prezzo del grano ha perso il 42% rispetto a un anno fa. Viene pagato anche 18 centesimi al chilo quello duro, quello tenero 16 centesimi al chilo. Come mai intanto il crollo del prezzo, visto che aumentiamo le importazioni? Prego Guidi. Beh, certamente si verifica qualcosa che aveva già cominciato ad essersi l'anno scorso, ma che oggi raggiunge una dimensione eccessiva, e per questo gli agricoltori sono in piazza, per questo gli agricoltori si lamentano. Noi siamo primi importatori di grano e siamo primi esportatori di pasta, questa è una cosa che c'è sempre stata. Quello che suona male è che il prodotto italiano, che viene sempre magnificato anche dall'industria pastaia, italiana, è pagato decisamente meno rispetto a quello che viene pagato fuori dall'Italia. Cioè noi arriviamo all'assurdo che viene pagato di più il grano di importazione che non quello italiano, che forse subisce anche una speculazione in questi giorni, perché viene addirittura esportato, mi si dice, nel Nord Africa per fare del couscous. I dati sono di un prezzo del grano canadese a 276 euro più i costi di trasporto via nave e quant'altro, mentre per il grano dalla Francia, il grano tenero, siamo a 249. Quindi il sistema agricolo italiano non riesci a reggere dei prezzi così bassi con dei costi di produzione che sono ben superiori a quelli di 30 anni fa. Io credo che ci sia da rivedere un po' tutto il sistema della cerealicoltura italiana, che spesso è considerata figlio di un dio minore per il solo fatto che non è il cru dell'agroalimentare, ma è sicuramente la base per tante aziende agricole e per tanti territori che vanno anche al di là della Puglia, perché le produzioni arrivano fino all'Emilia e più su alla Lombardia, certo, al Veneto. Allora, dopo il metro e la pubblicità, vorrei capire però, a me forse sbaglio, ma ricorda leggermente la vicenda del latte, cioè prezzi del latte alla stalla bassissimi, che non coprivano neanche i costi di produzione, mentre il latte veniva importato da altri paesi e l'accusa era all'industria di trasformazione di guadagnarci, passatemi il termine, troppo, cioè margini troppo alti rispetto al prezzo che viene dato al produttore. Vorrei capire se siamo in quell'alveo, in quel filone lì, e soprattutto però perché, diciamo, io non sto capendo perché il prezzo complessivamente sia crollato così tanto. Dopo il meteo la risposta. Focus Economia. Just 17:39, vedo molti messaggi sulla Turchia, giustamente. Alcuni mi fanno notare che i militari, questo ce l'avamo arrivati anche noi, ma soprattutto gli insegnanti, i docenti, i magistrati, adesso hanno appena arrestato il rettore dell'università di Ankara e Istanbul, per la Costituzione turca garantiscono la laicità dello Stato e quindi la non deriva islamica dello Stato, quindi Ataturk Kemal, loro sono i depositari del kemalismo, e quindi Erdogan li sta imprigionando, cacciando, parlo di magistrati, perché avrebbero potuto, non dico assolvere, ma avere pene miti per i golpisti, e così come i rettori, gli insegnanti. È chiaro che si chiama libera docenza, ma tutti i fascismi, i nazismi, la prima cosa che fecero, pensate al fascismo da noi, obbligarono giuramento di fedeltà al partito e al fascio, gli insegnanti. Cioè, è chiaro che dove c'è libertà di pensiero tu vai a colpire se sei un dittatore. Qualcuno mi scrive: ma avrebbero fatto la stessa cosa anche i golpisti? Sì, però quelli si chiamano golpisti. Questo è un governo democraticamente eletto che tratta con l'Europa. Allora è chiaro che, insomma, chiedi e devi pretendere maggiori garanzie, proprio perché si tratta di un governo democraticamente eletto che tratta con la Germania. Germania. Però la Merkel sta parlando su questo adesso. Allora, Presidente Guidi, torniamo ai prezzi dei cereali. Perché sono crollati del 40% rispetto a luglio di un anno fa? Beh, perché è bastato che ci fosse un minimo di produzione in più a livello nazionale, che è stata utilizzata come scusa per deprezzare fortemente il prezzo del mercato italiano. Prima mi chiedeva le similitudini con il tema del latte. La similitudine si riduce al fatto che i sistemi agricoli nazionali, sia sul latte sia sui cereali, sono disorganizzati, non abbiamo capacità di stoccaggio e quindi occorre investire di più, come ha detto di fare il ministro, per gli stoccaggi, in modo da gestire meglio il prodotto. Ma la similitudine si ferma qui, perché il latte che veniva offerto all'Italia aveva almeno, dico così, un prezzo più basso. Ok. Il grano importato ha addirittura un prezzo più alto, e quindi è evidente. Quindi, oltre al danno, la beffa. Anche perché notavo che, vabbè, i prezzi vengono aumentati per un pacco di pasta 8 volte quello che è il prezzo del campo allo scaffale. Però la cosa interessante è che un chilo di pasta, per fare un chilo di pasta serve sempre 1,3 kg più o meno di grano, però il prezzo del pacco della pasta è aumentato del 68%, dal 2007 costava 1,1 euro, adesso costa 1,85 euro al chilo. Mettiamo che ci siano dei costi servizio che sono aumentati, ma in verità noi non vediamo l'oscillazione in funzione del prezzo del grano, non è che ci accontenterebbe questo, certamente. Io credo che il modo giusto sia invece che la filiera si sieda attorno a un tavolo, che si ricomponga decisamente, che ci sia la reciproca affermazione che stiamo tutti producendo per un sistema Italia che non può vedere sparire centinaia di migliaia di aziende agricole con un rischio di territorio importante. E quindi credo che il dialogo fra il sistema agricolo e quello industriale debba riprendere. cercando di mettere in un angolo chi invece vuole fare speculazione o che mette sul mercato oggi in barba agli agricoltori un grano a prezzi bassissimi. Sì, qui lo dico a chi sta scrivendo il tema, in questo caso non sono gli OGM, abbiamo spiegato molte volte che noi anche tutto il mangime che usiamo per i nostri animali lo importiamo da paesi, se non ricordo male, quindi l'Argentina, soprattutto qui parlo del mangime, che usano gli OGM, quindi tutta la retorica sugli OGM, sapete come la pensa chi vi parla, è una retorica assurda, perché già usiamo l'OGM per dare da mangiare le nostre mucche. Per cui... E la beffa è che anche questi prodotti che vengono importati sono pagati di più del mais nazionale o della soia nazionale. Ecco, questo mi torna. Senso che lei diceva nel latte almeno lì c'era, non dico la scusa, ma c'era l'elemento di fatto che il latte di importazione costava meno, qui costa anche di più. Tra l'altro una cosa, da questo punto di vista, lei già la citava, siccome poi come marketing e come promozione viene spesso usato, perché tutti sappiamo che il made in Italy, l'essere italiano è un elemento in più, e quindi si dice latte italiano, pasta fatta con solo grano italiano, ecco, la cosa inaccettabile che tu da un lato lo usi, ne hai un vantaggio nel prezzo, diciamo tutta, no? Perché se tu fai pasta solo grano italiano, certo, la fai pagare di più, perché io come consumatore te la pago di più perché mi piace l'idea che il grano sia italiano, so dove viene, così. E poi tu però quando produci questa pasta paghi il grano meno, quello italiano meno di quello di importazione. Mi dica un'ultima cosa, ma i 10 milioni di euro di Martina? Troppo pochi, in buone intenzioni, ma certamente troppo pochi. È voluto essere, credo, un segnale di attenzione dopo tanto tempo che tutti colpevolmente abbiamo avuto una scarsa attenzione a queste, perché erano commodities, perché in Italia si può parlare solo dei prodotti a marchio, dei prodotti DOP, IGP, e non si parla più di cereali che sono invece alla base della nostra agricoltura. Io mi aspetto che prossimamente riusciremo a fare un piano cerealico nazionale che ci porti anche a coltivare varietà richieste dall'industria. L'Italia può coltivare grano di qualità. La ricerca e l'innovazione sono un elemento fondamentale per poterci dare da coltivare un prodotto qualitativo e anche quantitativo, perché a noi serve una quantità di qualità, sì, non so, per così, esatto, dire. Una quantità di qualità, sono d'accordissimo, perché sennò con le piccole produzioni le piccole produzioni non bastano. Grazie a Mario Guidi, so che il ministro ha detto che adesso vuole avviare un piano nazionale cerealicolo, che è quello che chiedono anche alcuni ascoltatori, che dicono ma perché non si programmano un po' meglio le produzioni. Ecco, questo dovrebbe arrivare all'interno di un piano nazionale che punti però a qualificare, quindi a valorizzare il prodotto made in Italy, che non può solo essere un elemento di marketing sul pacco quando si compra la pasta. Grazie al presidente di Confagricoltura Mario Guidi. Dico chi mi scrive, la qualità dei grani esteri superiore, non si può fare della pasta decente solo con i grani nazionali. Non lo so, immagino che ci sia del vero. Sto solo dicendo che se però è un elemento di marketing e che ti permette di posizionare il tuo prodotto nella parte alta, scrivere italiano, sennò perché lo scrivi? Io non ho mai visto su un pacco di pasta o di fatto con grano canadese. Allora vale per il latte, vale per il grano, vale per altre produzioni, per l'olio ci mancherebbe, in cui tu scrivi solo olio italiano, e questo ha un vantaggio commerciale. Beh, riconosci questo vantaggio commerciale anche quando lo paghi, tutto qua, non mi sembra una cosa così astrusa. Allora, ancora sulla Turchia, abbiate un po' di pazienza. Ho citato i nazifascisti, non i comunisti, vale anche per il comunismo. Stiamo parlando di purghe staliniane per raccontare quello che sta facendo Erdogan. Certo che vale anche per il comunismo, e in primis il comunismo staliniano. Si colpiscono le menti libere, non a caso si chiama libera docenza in Italia, e si colpiscono tutti quelli che creano cultura e libertà di pensiero, perché mi dovete spiegare che cavolo c'entra un rettore con il golpe pasticciato dei militari, su. E poi adesso però sono problemi per i turchi e non solo. Comunque andiamo sul traffico, va. Focus Economia. We'll be right back. Allora, dopo i prezzi del grano e delle materie, ragazzi, non è che si può parlare sempre solo di banche, lo dico a chi scrive, sempre solo di elementi internazionali. Dunque, sto vedendo molti messaggi, adesso un attimo di pazienza. Allora, banche sotto stress, e non solo le banche, insomma, pure noi in questo caldo e questi temi non scherziamo. Banche sotto stress con polemiche, perché io dico al presidente Patuelli, prima che mi ritelefoni, io non ce l'ho con le, però così come abbiamo trovato un tardivo l'appello e la definizione del bail-in come incostituzionale arrivata all'ultima assemblea a inizio luglio dell'ABI, adesso Patuelli dice: attenzione, gli stress test sono astrusi nel metodo e nel merito. Benissimo, Patuelli, possiamo essere anche d'accordo con lei, però sembrano sempre un po' tardivi, perché ormai arrivano il 29 luglio e arriveranno i risultati degli stress test e tutti stanno già speculando su questo. Ha iniziato la famosa lettera della BCE a Monte dei Paschi, ma faccio notare che oggi Credit Suisse, senza che nessuno gliel'abbia chiesto, fa i test su 4 banche italiane e dice che in caso di scenario avverso il Monte dei Paschi o dovrà andare in bail-in o dovrà essere garantito dallo Stato, perché avrebbe bisogno tra i 600 milioni e i 3 miliardi e mezzo di euro, siccome capitalizza poco meno di un miliardo, questo è. Mentre UBI, Banca, Intesa, San Paolo sono messe bene, disporranno anche nel caso peggiore di scenario di un eccesso di capitale, Unicredit mancherebbero tra i 4 e i 9 miliardi, che però il titolo starebbe già apprezzando in borsa. Nel giorno in cui dovrebbero arrivare le offerte vincolanti dei fondi di investimento americani rimasti in corsa per acquistare Banca Marche, Banca Etruria, Cari Ferrari, Cari Chieti, sgravate dai crediti in sofferenza e ricapitalizzate dal sistema bancario con 1.600 milioni. Le offerte però che stanno arrivando per le quattro banche sono basse, 400 milioni, che vorrebbe dire per chi ha salvato le quattro banche perdere 1.200 milioni, così, senza se, senza ma, e poi altri 200-300 milioni per il rimborso delle obbligazioni subordinate alle quattro banche. Tant'è che negli ambienti governativi non si esclude una riapertura della gara per le quattro banche, visto che la Banca Centrale Europea ha imposto di chiudere entro settembre. E le stesse banche che hanno finanziato il salvataggio a questo punto potrebbero trovare più conveniente un nuovo intervento che non portarsi a casa la perdita. Mi spiego: se tu hai messo 1.600 milioni, poi queste quattro banche vengono comprate dai fondi americani a 400 milioni, tu hai 1.200 milioni di perdita. Piuttosto a questo punto ti tieni l'investimento, intanto non vai a metterlo in bilancio come perdita e poi vedi cosa succede. Luca Davi, più o meno così dai Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. È più o meno così, sì, ci sono tanti temi sul tavolo, dal tema, come dicevi te, delle good banks, che potrebbe, lo capiremo bene domani, perché domani scade proprio il termine, l'hanno allungato, l'hanno posticipato proprio per dare spazio e occasione magari anche a nuovi investitori di entrare all'ultimo secondo in zona Cesarini. Cercheremo di capire se appunto magari questa gara possa riaprirsi anche proprio al fondo interbancario, al fondo volontario, e quindi sostanzialmente vedere un nuovo ritorno delle banche sane, certo. E quindi sostanzialmente magari acquisire all'ultimo secondo proprio questa partecipazione. Invece quello che agita il resto delle banche sono gli stress test. Allora, adesso vorrei commentare la borsa come sempre con Radio Corriere Sole 24 Ore sul resto, e poi ci teniamo per te tra virgolette il Monte dei Paschi -1,90, ma oggi non c'è stata, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Oggi non c'è stato uno scossone forte sulle banche italiane, anzi Banca Popolare perde lo 0,70, le altre sono o leggermente positive come la Pop Milano più 0,35, Intesa più 1,25, Unicredit più 1,70%. Invece movimenti più forti su Tenaris meno 2,20%. E anche Telecom meno 1%. Sì, come hai detto tu, non ci sono stati grossi scossoni. Quella che si è mossa in controtendenza è stata la solita Banca MPS meno 1,89%. Qui rimane il nodo delle sofferenze. D'altra parte la stessa Banca Centrale Europea ha detto che l'istituto si deve aggiustare ben 10 miliardi di sofferenze entro il 2018, quindi una soluzione andrà trovata e magari in tempi anche abbastanza rapidi. Detto questo, e passando oltre il nodo quindi di MPS, sì, oggi Tenaris è andato andata male, è arrivata a perdere oltre il 4%, poi ha chiuso in verità in calo del 2,2%. In questo caso è stata Goldman Sachs, una delle banche sappiamo che ha più peso nel mondo, che ha puntato l'indice sulla società e rivisto al ribasso il giudizio. Per quanto riguarda invece Telecom Italia, in questo caso c'è molto nervosismo. La prossima settimana, esattamente il 26 luglio, si riunisce il consiglio di amministrazione dell'azienda. Come ha detto il presidente Giuseppe Recchi, la semestrale parlerà da sola. Nei giorni scorsi i titoli dunque erano saliti molto, anche perché numerose banche d'affari hanno espresso giudizi positivi proprio sulla scommessa che la semestrale mostri un miglioramento dei conti e soprattutto dei margini, in riflesso a quella che è la cura cosiddetta del nuovo amministratore delegato Cattaneo. E d'altra parte oggi sono scattate un po' di prese di beneficio, si vede a qualche investitore alla fine è venuto il dubbio che poi non sia tutto rose e fiori. Sì, adesso vedo una notizia che riguarda le banche Etruria, adesso la raccontiamo. Questo per quello che riguarda invece, tornando alla borsa, Telecom Italia. Fiat abbiamo visto oggi in recupero, perché ieri aveva perso sull'inchiesta SEC, sui dati, secondo l'accusa, taroccati su dei concessionari autoamericani, ma oggi penso che conti anche la semestrale di Volkswagen, che è andata molto bene, meglio dell'anno scorso. Esatto, ci sono due fattori. Più 4% Fiat comunque. Sì, ci sono due fattori. Il primo è che è andato bene tutto il comparto auto, trascinato in alto proprio da Volkswagen, che ha sì registrato conti in calo a causa degli accantonamenti fatti per il Dieselgate, ma tutto sommato è andata nettamente meglio delle attese e inoltre ha confermato anche i target per fine anno. E in secondo luogo, per quanto riguarda Fiat, ha fatto più 4%, anche perché leggendo bene tutti i commenti dei vari analisti e delle varie società di intermediazione, tutti sì sono appunto un po' preoccupati per quanto emerso ieri, cioè che le autorità americane hanno messo nel mirino FCA. D'altra parte è tutto da vedere che cosa succederà, se ci sarà una multa, di quale entità, quindi insomma forse la reazione di ieri era stata anche troppo nervosa ed eccessiva. Allora, vedo molte domande e alcuni che mi scrivono: guardi che ormai tutti i promotori finanziari stanno mettendo il red mark, che vuol dire il bollino rosso, sulla data del 29 agosto. Secondo me più che 29 agosto, lei voleva scrivere 29 luglio immagino, perché 29 luglio saranno pubblicati gli stress test. Il perché lo chiariamo con Luca Davi dopo il GR24. Intanto vi do anche i migliori e i peggiori della giornata. PRL più 23%, Gala più 18%, Biancamano più 11%, Tiscali più 9%, Il Sole 24 Ore più 7%, fronte opposto Elettra Investimenti meno 5%, Assitec meno 4,30%, Softec meno 4,20%. Ringrazio intanto Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Leggo la notizia invece che riguarda Banca Etruria, perché è arrivato, era molto atteso, è arrivato anche l'iscrizione nel registro degli indagati di Alberto Rigotti. Chi è Alberto Rigotti? Se qualcuno ha seguito la vicenda di Popolare Etruria se lo ricorda. Consigliere di amministrazione della banca fino al 2010, alla sua società, una società immobiliare di Mantova, Hevea con l'H davanti, la vecchia Banca Etruria aveva concesso un finanziamento di oltre 7 milioni di euro. Tu ti chiedi: ma cosa c'entra l'aretino con il mantovano? È sotto discorso degli amici, gli amici. Uno degli affidamenti segnalati dal commissario liquidatore anche a Banca Italia, perché mai rientrato. Per gli inquirenti, i soldi dati a Rigotti, ad Alberto Rigotti, sarebbero stati dirottati almeno in parte verso altre società riconducibili proprio a Rigotti. E a questo punto, nel filone della bancarotta, il numero degli indagati sale a 4, perché oltre a Rigotti ci sono l'ex presidente Fornasari, l'ex consigliere Giorgio Guerrini e Paolo Luigi. E Fiumi, per tutti l'ipotesi di reato è bancarotta fraudolenta, ma con diversi finanziamenti sospetti. Grazie, dicevo, ad Onore Micheli. Luca Davi resta con noi perché ci devi spiegare questi stress test del 29 luglio. Intanto GR24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, con Luca Davi avevamo iniziato a ragionare sugli stress, le banche sotto stress, eppure i correntisti non scherzano, come battuta. Allora, gli stress test saranno pubblicati il 29 luglio. Abbiamo già detto di Credit Suisse, che ha fatto i suoi stress test e individua nel Monte dei Paschi l'unica banca che o dovrebbe ricorrere al bail-in o all'aiuto di Stato. Però la prima obiezione sugli stress test, al di là di Patuelli, presidente dell'ABI, che dice adesso insomma è un metodo astruso, sono astrusi nel metodo, nel merito, e poi se la piglia ha ragione in questo sulla fuga di notizie. Il sistema degli stress test contesta il fatto che preveda tutto stressato e tutto dannoso, con l'aggiunta di fughe di notizie che a quel punto crea una psicosi. La prima obiezione di Luca Davi che viene fatta agli stress test è questa: nel famoso scenario peggiore, quello secondo cui per esempio secondo Credit Suisse Monte dei Paschi dovrebbe ricapitalizzare tra 600 milioni e 3 miliardi e mezzo, è così brutto lo scenario peggiore che, e ricordiamo anche che cosa prevede, che la domanda vera è: ma ho capito, ma a quel punto il problema non sarebbe più la banca, la singola banca italiana, tedesca o francese, ma la tenuta del sistema economico stesso. Verissimo, c'è un problema ed è il fatto che i criteri sulle quali è basato questo scenario avverso, questo scenario estremo, sostanzialmente ipotizza una doppia recessione, un crollo del mercato immobiliare, un tracollo nuovo ennesimo dei titoli di Stato, un Armageddon finanziario sostanzialmente, che di fronte al quale difficilmente qualsiasi banca, qualsiasi istituzione, qualsiasi impresa probabilmente resisterebbe. Quindi, detto questo, c'è un problema in più che pesa sulle banche italiane ed è la modalità con cui questi stress test sono applicati sui bilanci delle banche. Perché? Perché gli stress test vanno a toccare esattamente, vanno a analizzare e a stressare la tenuta delle banche rispetto in particolare a tre cose: i rischi di credito, quindi i prestiti che sono concessi alle imprese, i titoli di Stato e ovviamente il fatto che ci sia un problema sul capitale. Su questo le banche italiane sono ovviamente nel mirino. Siccome c'è una banca in Germania, Deutsche Bank, che ha 22-25 volte il PIL tedesco investito in strumenti derivati, gli stress test vanno a vedere anche cosa capiterebbe a chi ha strumenti derivati, perché voglio dire, quello che noi sappiamo come esperienza dal 2008 è che i primi a saltare furono tutti i collaterali e le scommesse, i CDS, credit default swaps, i premi pagati nel caso di fallimento, cioè tutta la carta su carta. Questo viene considerato negli stress test o no? È il grande tema, il grande dibattito. Oggi il tema del, come dire, su cui l'EBA, che è l'autorità bancaria che ha organizzato e modellato questi criteri su cui sono basati appunto gli stress test, si concentra su alcuni aspetti più facilmente misurabili, che sono appunto i crediti alle imprese, i titoli di Stato. Sui derivati c'è una opacità incredibile ed è qua è più difficile andare ad analizzare e provare e verificare e testare la tenuta di questi derivati. È il motivo per cui infatti il mercato oggi diciamo che vende o si concentra o la speculazione, se vogliamo chiamarla così, i fondi di investimento sono più sensibili a informazioni che mettono in evidenza quindi la fragilità di un mercato che è molto più trasparente forse in questo senso, ma che finisce e per l'ennesima volta nel mirino. Ed è un po' l'accusa all'EBA, l'autorità bancaria europea, di essere molto nel valutare le banche molto sensibile ai criteri che avvantaggiano le banche del centro Europa, lo dico con molta chiarezza, per cui i derivati, come tu ricordavi, non vengono mai calcolati, è molto poco sensibile ai modelli bancari del sud Europa, dove ci sono molti prestiti alle imprese, perché abbiamo in Italia soprattutto decine di migliaia di piccole e medie imprese, mentre in Germania sono più grandi imprese, e quindi di essere un sistema diciamo molto parziale nella valutazione finale. Sicuramente le banche commerciali finiscono nel mirino, e poiché le banche italiane sono soprattutto, anzi totalmente, di tipologia commerciale, inevitabilmente questo va a fare sostanzialmente morsa e le vanno ovviamente a stressare in maniera significativa. Detto questo, è giusto secondo me anche chiarire due punti. Primo, che gli stress test quest'anno, al contrario dei precedenti, non prevederanno delle soglie minime di capitale da dover raggiungere. Questo significa che a lunedì mattina, quindi all'indomani sostanzialmente della divulgazione di questi risultati, non ci sarà una evidente carenza di capitale rispetto a delle soglie minime. È anche vero però che qualsiasi investitore, come dicevi giustamente te, guarderà a questi risultati, in particolare delle 5 banche italiane, ma così come ce ne sono altre 47 in Europa che dovranno, su cui si alzerà il velo, e lì si guarderà sostanzialmente cosa hai fatto tu, cosa ha fatto l'altra. Quelle che mostreranno una tenuta un po' più fragile ovviamente finiranno nel mirino. Delle 5 banche italiane ce n'è una in particolare che è quella che rischia, che è MPS, e che non a caso infatti da diverso tempo, non appena si è capito che diventava oggetto di grandissima attenzione da parte della vigilanza europea, ha avviato un piano di recupero che dovrà essere presentato contestualmente proprio alla divulgazione di questi risultati, e dovrà sostanzialmente rassicurare il mercato, perché in quel momento la banca dirà: va bene, noi abbiamo questa indicazione, questa pagella europea, ma dall'altra parte stiamo anche dicendo: bene, noi ci rimettiamo in strada con una serie di iniziative che appunto sono quelle di una mega cessione di sofferenze, di crediti in sofferenza, e probabilmente anche quello di un aumento di capitale che è destinato a entrare in... Sì, devo dare alcune precisazioni agli ascoltatori, perché vedo che come sempre quando si maneggia il tema si rischia di essere fraintesi. Ma nessuno ha detto che Monte dei Paschi dopo il 29 ricorre al bail-in, abbiate pazienza. Questo è lo studio che ha fatto Credit Suisse, e anche lì, siccome io non ho nessuna sudditanza nei confronti degli svizzeri, dei tedeschi e degli altri, siccome sappiamo che anche le banche d'affari e l'investment banking hanno questo avuto nel passato, diciamo anche nel presente, il vizietto di dare giudizi ma non di non chiarire mai la loro esposizione sul titolo. Noi facciamo intere puntate prima del 2008 raccontando come molte volte era venuto fuori che il giudizio dato da una banca non corrispondeva con l'effettiva operazione della banca stessa, cioè dicevi compra quando andavi a vendere con la mano sinistra, o dicevi vendi quando andavi a comprare con la mano sinistra. Allora lì l'accusa era di muovere il mercato. Io lo dico perché che Credit Suisse conduca i suoi stress test su quattro banche italiane è la posizione di Credit Suisse, ok? E non so se sia o meno, non lo so veramente, in conflitto di interessi con le banche di cui... Ricordiamo che Morgan Stanley recentemente ha fatto un report su una banca particolare, che è il Banco Popolare, dando dei risultati che verranno dimostrati palesemente errati rispetto a questo, almeno la posizione della banca è queste proiezioni sono sbagliate, noi dimostreremo che i risultati di stress test daranno altri esiti, quindi come dire, non sempre anche gli analisti ci prendono, ecco, forse questo vale la pena segnalare. Esatto, no, ma oltre a questo abbiate pazienza, questi saranno i risultati, poi si cerca di capire che cosa fare, che il Monte dei Paschi abbia un problema di capitalizzazione rispetto alle sofferenze, cioè rispetto ai crediti che non li stanno più rientrando, lo sappiamo tutti. C'è stata la lettera, a mio avviso in maniera sbagliata, diffusa alle agenzie della Banca Centrale Europea al Monte dei Paschi, che ha chiesto di riassorbire 10 miliardi, di eliminare 10 miliardi di sofferenze nei prossimi 3 anni, giusto, se non ricordo male. Per cui tutto questo si valuterà caso per caso, però da lì a dire attenzione, io cosa faccio, come mi scrive un ascoltatore, ho un mutuo col Monte dei Paschi, ma abbia pazienza. Beh, lui può stare tranquillo a questo punto. I mutui non sono neanche coinvolti nel bail-in, per cui leggete bene, anzi, insomma, chi ha un mutuo, adesso non voglio fare la battuta, dai, sarebbe troppo cinica, ma se tu devi qualcosa alla banca... Se lo goda. Voglio dire, il problema, no, tu non hai problemi se la banca fallisce, cioè il problema è se la banca deve qualcosa a te che hai problemi se la banca fallisce, cioè, ok? Fermo restando che non fallirà il Monte dei Paschi, nel senso, non è le banche hanno un principio sistemico, però dico, anche la domanda è sbagliata come impostazione, ma se io devo dei soldi alla banca, un mutuo a casa mia vuol dire che tu devi dei soldi alla banca. Voglio dire, se la banca fallisce tu non devi più niente a nessuno, paradossalmente è ovvio che ci sarebbe un terremoto sistemico, quindi questa cosa non capiterà mai. No, ma l'obiettivo anzi invece è risolvere il problema. Ma a proposito di cultura finanziaria, uno deve vada dove cavolo vuole, su Wikipedia, su, meglio se va sul sito del Sole 24 Ore, e cerchi di capire i 4-5 elementi chiavi del bail-in. Luca Davi, quindi tornando al 29 luglio, è un venerdì e gli stress test arriveranno alle 22, ne riparliamo il primo di agosto. Il tema forse che puoi dire, vale la pena segnalare, è che questi esami non daranno un allarme, non dovranno costituire un allarme per i risparmiatori, per gli investitori immediato. Questi stress test daranno una dimensione di un problema per alcune banche, intesa per dire, oggi il presidente Grosspietro l'ha sottolineato, uscirà per dire come una banca solida, diverse altre banche usciranno molto bene, alcune banche ne usciranno un po' peggio. Il tema potrà diventare in prospettiva, nei prossimi mesi, in autunno, i risultati di questi stress test andranno semmai a corroborare quello che è l'esame vero, grande, atteso, che è il cosiddetto SREP, che è un esame importante che l'autorità di vigilanza conduce ogni anno, e a quel punto sì, verranno definite delle soglie di capitale che dovranno essere rispettate. In questo senso gli stress test sono da osservare con attenzione, non però finalizzandoli a, come dire, un allarme generalizzato, perché non deve essere questo il tema. E forse in questo senso forse va letta la frase di oggi di Patuelli, cioè non c'è un allarme vero, immediato, un'urgenza. C'era sicuramente e c'è un tema di come queste analisi, questi schemi di lettura che mettono alla prova la tenuta delle banche italiane ed europee in generale vengono costruiti. Se vengono basati su un problema proprio, e quindi si va a controllare, a tarare il problema sulle banche commerciali, è evidente che poi alla fin fine sono quelle che saltano in aria. Allora, voglio chiudere su questo, perché mi dice un ascoltatore: guardi che se una banca va in default, in fallimento, viene chiesto il rientro immediato di tutte le esposizioni. Allora, chiarisco, era una battuta, nel senso che uno che ha un mutuo con Monte dei Paschi non è previsto, non è neanche coinvolto nel bail-in, quindi qualcosa deve temere. Fermo restando che al di là della battuta, il fatto che Monte dei Paschi non possa tecnicamente fallire è nelle cose. Poi faremo una puntata, se volete, anche sul perché le banche non possono fallire, perché il danno sarebbe sistemico. No, forse vale la pena dire una cosa: bail-in al limite significa 8% delle passività, esatto. Quindi subordinati, azioni, bond non garantiti. Oltre interviene lo Stato, finisce lì, non c'è oltre, quindi non si va oltre. Allora, sì, che non rassicura però chi è un azionista, un obbligazionista, no, certo, ancora in tizia Monte dei Paschi, che l'8% delle passività può essere anche tanta roba, adesso. Certo. Però il punto è che si scatenerebbe un panico sistemico, ecco perché si stanno pensando ad altre soluzioni, perché è ovvio che il panico sarebbe sia nei correntisti sia negli speculatori, perché direbbero: bene, dopo Monte dei Paschi a chi tocca, e torneremmo alla caccia, diciamo, alle streghe. Grazie Luca Davi, traffico e poi parliamo di Turchia. Focus Economia. Minuti, andiamo sull'ultimo tema, che è un tema in questo momento di diritti civili e politici. Lo dico in maniera molto chiara, perché in Turchia oggi, poco fa, è stato arrestato anche il rettore dell'Università di Gazi, Ankara. Tutti i rettori sono stati licenziati, ma il primo a essere arrestato. Le purghe nelle scuole continuano, sospesi altri 6.500 docenti dopo i 15.200 già allontanati ieri e i 21.000 a cui è stata tolta la licenza per insegnare nelle scuole private. Qui il golpe non c'entra nulla, qui Erdogan sta facendo piazza pulita del libero pensiero laico nella Turchia, diciamolo molto chiaramente, perché adesso che gli insegnanti o i rettori o i giudici si mettono a guidare i carri armati, qui è il problema, che ne approfitta per il golpe fallito e pasticciato per regolare i conti e far pulizia dei magistrati, degli insegnanti, dei rettori, di tutti quelli che in una democrazia normale sono corpi indipendenti dai tempi di Tocqueville rispetto al potere esecutivo. Ok, perché qui stiamo alle basi, all'ABC dell'illuminismo e della democrazia per come la conosciamo. La magistratura è indipendente e la docenza in Italia si chiama libera docenza perché appunto non può sottostare al potere politico e governativo. Ok, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato il rating, il voto della Turchia a BB da BB+, con prospettive negative, e questa è la situazione. Dopodiché, lo risponde un ascoltatore, la variabile politica e democratica è la variabile principale in questo momento in Turchia. Non possiamo però non notare che ci sono rapporti e preoccupazione molto forte anche negli imprenditori che lavorano in Turchia, perché noi siamo... la Turchia è il decimo mercato di destinazione del nostro export, il primo in Medio Oriente e Nord Africa. Noi siamo il secondo esportatore dopo la Germania in Turchia a livello europeo e abbiamo il 5% della quota di mercato. 1300 sono le imprese italiane presenti in Turchia. Nell'anno scorso abbiamo esportato beni per 10 miliardi di euro, importiamo dalla Turchia circa 6 miliardi di euro di beni, e anche le banche italiane sono esposte, le banche straniere sono esposte in Turchia, quelle italiane per 9 miliardi, le francesi per 40 miliardi, le inglesi per 24, americane per 20 miliardi, tedeschi 15 miliardi, giapponesi 12 miliardi. Siamo in collegamento con la vicepresidente di Confindustria che ha la delega all'internazionalizzazione, Licia Mattioli, buonasera. Buonasera, lei, buonasera a tutti. Per far capire a tutti, accompagna tutte le imprese italiane quando fate le missioni che abbiamo visto svolgersi in vari paesi, nel continente africano e anche in Turchia. Allora, la preoccupazione in questo momento qual è, Presidente Mattioli? Ma innanzitutto devo dire che non c'è dubbio che sia cambiata la Turchia, no? Avevamo già avuto tantissimi segnali in quest'ultimo periodo, come diceva lei, io non do una votazione geopolitica, ma abbiamo visto tante cose accadere in un paese che era diverso già solo quando siamo andati a fare la visita con Renzi, meno di un anno fa, insomma, no? E sicuramente i numeri lei li ha dati, noi abbiamo tante aziende che sono lì presenti e sono anche delle aziende importanti e sono aziende che in questo momento temono anche per la loro sicurezza, perché è chiaro che il sistema di sicurezza, la cornice di sicurezza della Turchia, che era già intaccata da un problema di attentati terroristici, in questo momento è attaccata anche un problema di stabilità politica. Quindi sicuramente per le nostre imprese questo è un grossissimo punto di domanda che non sappiamo dove si porterà. E ad oggi e fino adesso il PIL interno è cresciuto, nei primi due trimestri dell'anno ha continuato a crescere, era più 8% rispetto all'anno prima. Teniamo presente che però la più bassa della crescita totale dell'anno 2015, dove aveva raggiunto 4,2, quindi comunque già c'era una sorta di minimo rallentamento. Adesso non so che cosa succederà, sarà facile prevedere che la situazione si rallenterà ancora, no? Perché ovviamente ci saranno delle difficoltà. Teniamo presente che il governo dice di non voler assolutamente sostenere, di fare interventi per sostenere il cambio, e quindi questo vorrà dire che ci sarà un'inflazione che sale. E quindi ovviamente i prodotti importati saranno più cari, e questo colpirà ancora più duramente la bilancia commerciale turca, no? Perché in questo momento la bilancia commerciale era già molto sotto stress per il problema degli turisti, perché già solo da Mosca avevano 4 milioni e mezzo di turisti, il 90%, quindi un po' meno di 4 milioni e mezzo di turisti in meno rispetto all'anno prima. Sì, sui turisti adesso, già nei primi 5 mesi dell'anno, figuriamoci adesso, il turismo italiano, perché la botta grossa l'hanno creato i turisti turchi. Russi, dopo lo scontro e le sanzioni russe a Turchia. Però già nei primi 5 mesi dell'anno il turismo italiano in Turchia era crollato del 45% per il rischio terrorismo, diciamo, soprattutto. Sì. Ora immagino che la cifra sarà ampiamente più alta, anche perché non oso pensare chi possa programmare a luglio, agosto, in questo momento le vacanze in Turchia con serenità. Ci sarà qualcuno che lo farà, però insomma, attenzione. E poi il tema sicurezza, ricordiamo che l'aeroporto di Istanbul si stava imponendo e proponendo a livello di Europa continentale, chiamiamola così, come vero hub alternativo ai grandi hub Francoforte e Londra, soprattutto sulle rotte asiatiche, investimenti fortissimi nell'aeroporto, investimenti molto forti nella compagnia di bandiera Turkish Airlines, per cui c'è anche tutto il tema di chi usava Istanbul come snodo, come hub per muoversi in altre aree regionali. Noi, dottoressa Mattioli, siamo presenti in Turchia soprattutto autoveicoli, macchinari, apparecchiature, c'è anche ovviamente la Fiat Chrysler, la borsa dove vengono prodotte le Fiat Tipo, ma anche prodotti chimici e il test, cioè quella caratteristica delle nostre imprese lì qual è, visto che lei le ha conosciute molte? Ma dunque, ne abbiamo un po' di tutti i generi, perché noi siamo molto molto presenti, come lei diceva giustamente, e siamo tra l'altro con investimenti importanti da oltre 40 anni, pensi che abbiamo uno stock di più di 3,3 miliardi di euro investiti lì, e abbiamo aziende da Ferrero, quindi e Barilla come aziende dell'alimentare, ad aziende che fanno il cotone lì, da Albini che ha dei cotoni, perché il cotone egiziano è straordinario, no? E fa dei cotoni incredibili e ha le aziende lì. E poi però lei parlava di sicurezza, e ricorderei il fatto che noi stiamo partecipando in questo momento alla realizzazione di grandissimi progetti in Turchia, per esempio il terzo ponte sul Bosforo con la Astaldi. Quindi anche in questo senso tutte queste situazioni di instabilità, certo, non giovano certo alle nostre imprese presenti lì. E non dimentichiamoci, l'ha citato lei prima, la banca Unicredit ha una joint venture importantissima con l'IAP Credit, che è considerata la quarta banca del paese. Quindi siamo veramente in una situazione di grande legame e di grande preoccupazione. Abbiamo Moda che produce lì, macchinari che vendiamo lì tantissimo, l'industria manifatturiera di tanti tipi, apparecchiature elettriche, insomma veramente è un paese in cui vendiamo di tutto, direi, tutto quello in cui siamo forti. Infatti abbiamo raggiunto quota 10 miliardi di euro l'anno scorso di esportazione. Allora, una risposta. Dunque, è chiaro che l'ho detto come premessa anche inizio programma, la variabile economica in questo momento è secondaria rispetto alla variabile dei diritti civili e dei diritti politici. Però attenzione, quando si analizza la Turchia nei confronti di Erdogan, del sultano, come viene soprannominato, la variabile economica è molto importante per capire la Turchia, nel senso che se si va a guardare quello che è stato lo sviluppo economico degli ultimi 12 anni in Turchia, beh, è triplicato il reddito pro capite. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente c'è un consenso che molti osservatori occidentali che stanno solo a Istanbul e da una parte magari occidentale non vedono. C'è un consenso di una classe media che si è formata, a torto o a ragione, non me ne frega nulla, nei confronti di Erdogan, perché gli ha creato la ricchezza, ha creato la classe media che prima non c'era. Quindi, prima di dire un conto sono i diritti civili, un conto è capire perché Erdogan comunque abbia e goda di un consenso che ha avuto anche alle ultime elezioni. Grazie intanto a Alice Mattioli, vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi e intanto l'augurio come sempre di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.